Comunicato. Denuncia del presidente dell'ordine e della Lombardia attesa per il parere del Consiglio di Stato sul decreto Sicchini e per la firma dei Ciampi e la loggia. All'esame del Quirinale, un tempo infinito. Manovre turbidi pesanti attorno al decreto. Sue ali la loggia ci fa chiarezza in linea con la cardinale sulle competenze dello Stato e delle regioni in tema. Abruzzo ha dichiarato e sono sotto adesso. Forze di sinistra, obiettivamente alleate, il congiornano contro elementi dell'Europa, con la direttiva SPA, è riconosciuto il Gordini italiano, sulla riformista una nota. Ha scritto, ci non capiva quale fosse inteso, la formazione del signor spiegare quale ci non gli sfa come presenza del nero nella pari agli osservatori politici torbido e pesante e in atto un nuovo scontro attorno al mondo professionale girano 5 milioni di voti e te ne legano contro i colori ci sono impegnati oggi a battaglia. Battaglia di Reggio Guardia oppure in una battaglia ostile e un certo Filis sente destro per non andare via a battaglia al comitato unitario prana contro l'ambasciatore del decreto e non bisogna di me cantare ce n'è governo tenta di cancellare il clima travalto la reagione del custodi del separo della nazione. Orario fissi dell'ordine e della rimarranno già i pomorogeri del giorno per l'assemblea del personale. Niente più godo allo sportello, scaricata ma chi tutta la modestità informale. Espensa e mensame. La tutela della provisione, il governo ha potere di disciplinare l'esame di Stato. La provisione è conosciuta a livello comunitario. La spinta adesiva impressa la Lombardia siamo più libere dopo anni a cari patero e di matto dei editoria, dei giornalisti.